il gioco sia frutto dell'idea e del lavoro, allora devi prendere i giovani, che sono quelli che lo realizzano con più facilità e con più impegno e anche con più intensità. Sì, noi restiamo ancora una mentalità, un campionato, un calcio che fa fatica ad adattarsi al tempo dei giovani. Ignoranza. Lei pensi, sarebbe come nella cinematografia, che vai a prendere dei grandi attori perché devono recitare al soggetto senza una trama. Sarebbe come nelle commedie che non ci fosse un copione, o nella musica uno spartito. E pensiamo che lo spartito sia dato dal grande musicista, o che ognuno suoni quello che vuole. E quindi finché non avremo capito questo è quello che ha capito la Spagna e un po' tutto il mondo. Noi partiamo di lì, partiamo dal gioco, cerchiamo di dare un gioco e cerchiamo di prendere i ragazzi più funzionali per questo, perché sappiamo che il gioco moltiplica le loro qualità. Senza il gioco invece le loro qualità vengono disperse. Mi diceva Guardiola, noi abbiamo fatto il salto di qualità quando da una tecnica individuale siamo passati a una tecnica collettiva e abbiamo cominciato a giocare sia a livello difensivo che offensivo collettivamente. Certo, al di là delle questioni di bilancio, che poi ovviamente hanno il loro peso, io ad esempio trovo incredibile, difficile da capire quello che sta accadendo intorno del Sharawi, se davvero il Milan dovesse sacrificarlo per arrivare a Tevez, ad esempio. Prego. Io non so di Sharawi e non voglio mettere il becco, anche se è un giocatore che è stato con noi per 4-5 anni, lo ha fatto 17, 18, 19, 20, 21, e gli auguro di poter avere successo. La cosa che io chiedo ai settori giovanili è di dare una continuità di lavoro. La qualcosa purtroppo non si verifica, anche perché se non c'è uno stile di gioco comune è difficile dare una continuità di lavoro. Per chiudere, Sacchi, Mangia merita una partita importante. Didatticamente ha una grande idea, un'idea importante, ha conoscenza, ha sensibilità e didatticamente molto bravo, quindi io credo che mi sembra impossibile che non trovi una panchina importante. Certamente, grazie ad Arrigo Sacchi. Grazie a voi, arrivederci. E però le panchine della Serie A in questo momento sono tutte occupate, e quindi Davis Mangia, che ha chiesto un paio di giorni per riflettere sul suo futuro, probabilmente dovrà sedersi ed aspettare che se ne liberi almeno una di panchina, sempre che non voglia continuare la sua esperienza con l'Under 21. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ci state scrivendo in tanti, ad esempio c'è chi chiede un'opinione sulla partita di ieri e risponde, ed è Luca: ma chi sono Fausto Rossi e Bianchetti? Eppure sono due dei perni di questa Under 21. La differenza è, e scrive Luigi su Twitter, chiocciola tutti convocati, è che loro, gli spagnoli, i giocatori, anche i giovani, li fanno giocare in Champions League, mentre noi li mandiamo in B a farsi le ossa. E Thiago Alcantara, ad esempio, è la fotografia esatta della differenza che c'è tra noi e loro. E poi ancora Stefano da Milano: come sarebbe finita con la Spagna se avessimo fatto giocare Balotelli e Del Sharawi? Io credo, Stefano, che sarebbe finita probabilmente come è finita, perché la Spagna è comunque più forte di noi. Detto questo, Prandelli ha già avuto sensibilità a lasciare a questa Under 21, ad esempio, un giocatore come Marco Verratti, che è un giocatore che serve anche la nazionale maggiore. E poi ancora c'è chi scrive: 349 238 6666, non è stato un miracolo, siamo stati inseriti in un girone ridicolo e in semifinale l'Olanda meritava più di noi. Ancora: abbiamo sempre fatto bene con l'Under 21 e non c'era Sacchi a guidare il progetto in federazione. Però è vero che da un paio di anni a questa parte Sacchi ha portato qualcosa di nuovo nella federazione. Intanto una squadra nuova, l'Under 15, lo spiegava, che ha poi dato subito risultati con la finale europea dell'Under 17. E poi c'è un'impostazione diversa, le nazionali italiane giocano tutte con lo stesso modulo e in questo stiamo copiando ad esempio proprio l'esempio della Spagna. Filippo dalla provincia di Livorno, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Un saluto a tutti, in particolare a mister Sacchi. Dica. Io sentire parlare un allenatore in questi termini, cioè di gioco, di volontà di imporre un gioco armonico, mi sembra di sentire una trasmissione che sia fuori dal mondo, perché di solito non si sentono mai questi discorsi. Ma ogni tanto ci proviamo anche noi, devo dire che l'avventura dell'Under 21 ci aiuta, ci facilita da questo punto di vista. Infatti questo ci dà grande forza, però è veramente un parlare diverso rispetto agli allenatori che normalmente sentiamo, considerati fenomeni. Quindi da voi io vorrei salutare Mister Zacchi, perché secondo me è colui che davvero ha cambiato il calcio, perché molte cose che ora alcuni allenatori portano avanti, lui le ha fatte per la prima volta. Già da quando era nelle giovanili della Fiorentina fino a quando è allenato nazionale. E come le volevo dire, appunto, sono contento di sentir parlare così, e bisognerebbe che fosse questo è lo spirito giusto, secondo me, col quale bisognerebbe guardare le partite, ma sono veramente sconcertato a sentire che solamente pochissimi allenatori parlano in questo modo. Beh, in Italia sicuramente, poi io credo che ogni movimento abbia le sue caratteristiche. Noi in Italia abbiamo vinto tanto facendo un calcio diverso, con una mentalità differente da quella di cui anche Arrigo Sacchi ci ha parlato adesso, e quindi io penso che vada rispettato il nostro modo e la nostra storia di fare calcio. Poi è interessante anche analizzare se esiste un cambiamento, se cerchiamo di copiare il meglio dall'estero, e allora è interessante anche parlarne. Grazie Filippo. 800 24 00 24, andiamo a Bologna da Martino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. No, molto di ciò che volevo dire l'ho già detto lei. Volevo dire questo: intanto una critica severa, ma severissima, nei confronti dei dirigenti dell'Under 21. Perché? Perché la Spagna ha utilizzato i migliori giocatori in suo possesso, mentre l'Italia no. In Brasile ce ne sono almeno tre, li ha nominati lei prima, e sono convinto che con quei tre lì in aumento ai giocatori di ieri, noi quella figuraccia non la facevamo ieri. Ma vede Martino, io non penso che sia stata una figuraccia quella di ieri. Io penso che l'Italia se la sia... Sì, prego, io penso, poi la faccio parlare. Io penso che l'Italia se la sia giocata per quanto poteva. Poi a un certo punto è uscita la differenza con la Spagna. Prego, però, finisca. No, voglio dire, è una figuraccia, perché non si può affrontare la Spagna con una difesa come quella nostra, laddove il secondo gol è scaturito dal fatto che ci troviamo con uno spagnolo in mezzo a due italiani, e gli si dà la possibilità leggera proprio di girarsi e tirare in porta, marcato da due giocatori italiani. Questi sono due ragazzi bravi, va bene, ma non hanno l'esperienza di giocare a quel livello con quei giocatori che giocano nel massimo campionato spagnolo. Ma non c'è dubbio, Martino, quindi, però mi consenta. Doveva privilegiare, certo, l'Under 21, perché il campionato dell'Under 21 e quella partita di ieri era molto più importante del defilé che stanno facendo sulle spiagge in Brasile. Sì, però mi consenta Martino, in Brasile c'è De Sciglio che poteva servire per la difesa di questa nazionale. De Sciglio è un esterno e io credo certamente non avrebbe spostato gli equilibri della nostra difesa, che di questa Under 21 resta certamente il reparto più in difficoltà e più privo di esperienza, se pensiamo che di fatto provengono tutti dall'attuale Serie B. E quindi io credo per questo che i rapporti di forza con la Spagna non sarebbero cambiati, anche inserendo De Sciglio e Sharawi e Balotelli. Piero dalla provincia di Venezia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Non sono assolutamente d'accordo che quella di ieri sia stata una figuraccia. Nemmeno io. Hanno dato il massimo, e quello era il massimo che si poteva ottenere. Un nome su tutti, Donati, senz'altro, che è vergognosamente ridicolo che venga mandato a giocare fuori dall'Italia e ci si tengano certi cassoni e stranieri. Però un minimo di ipocrisia Mister Sacchi, insomma, ce l'ha messa, perché la nostra nazionale ha insistito oltre ogni limite sopportabile con giocatori tipo, che ne so, Insigne, per esempio, che ogni volta che vedeva la palla se la voleva portare a casa. Quindi quando si dice che si voleva giocare con un modulo, con il gioco d'insieme, eccetera eccetera, non si è stati effettivamente così di parola. Io credo però anche l'allenatore Mangia in un'occasione, stuzzicato da un giornalista, ha detto Insigne prima di cambiarlo mi deve far arrabbiare davvero molto. Ma io credo poi, Piero, e poi la saluto, che andiamo alle notizie di borsa, che anche ogni spartito, anche quello disegnato meglio di tutti, abbia bisogno di interpreti che si stacchino rispetto alla media. Insigne lo è per questa Under 21, anche il Milan di Sacchi li aveva, perché probabilmente non sarebbe stato lo stesso Milan senza Van Basten o Gullit, anche se quello era un Milan evidentemente costruito soprattutto sul lavoro e sull'idea tattica di Sacchi, che è stata rivoluzionaria. Però è bello discutere di questi temi. Tutti convocati. Giochiamo contro una squadra che è vice campione d'Europa dopo aver perso contro la squadra campione del mondo. Secondo me è una squadra che ha qualità in tutte le parti, a cominciare dal centrocampo, che è alla pari di quello spagnolo, per me il migliore al mondo. Una squadra che è riuscita a preparare bene questa Confederation, ha fatto un buon lavoro, l'ho vista con la Repubblica Ceca appesantita per il lavoro iniziale e adesso è in grande crescendo. C'è un allenatore che è un amico che io stimo molto, sta facendo un grande lavoro sulla squadra che ha dato grandi motivazioni a tutti i giocatori. Questo era Alberto Zaccheroni. Sono davvero curioso questa notte di vedere il Giappone male male contro il Brasile nella prima partita. Vediamolo contro gli azzurri. 800240024. Roberto dalla provincia di Trento, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Dalla provincia di Treviso. Dalla provincia di Treviso, prego. Sì. Volevo soffermarmi sulla partita della nazionale di ieri e non sono d'accordo con coloro che esprimono quei giudizi disfattisti, perché non ha giocato Balotelli, non ha giocato Sharawi, non ha giocato De Sciglio. Perché ritengo che la nazionale Under 21 è una palestra per la nazionale maggiore. Il risultato alla fine della nazionale Under 21 lo si ricorderà, non dico malapena, però non è uno specchio di riflesso come la nazionale maggiore. Perché se noi mandiamo tre giocatori del calibro di Balotelli, Di Sciglio e Sarave a giocare con la nazionale maggiore, lì si rafforzano sia di esperienza che di capacità. E un altro anno andando a fare i mondiali, questa cosa qui ne traranno sicuramente beneficio. Sì, sono d'accordo, Roberto. Io credo che la Confederations, che è poco più di un torneo amichevole, abbia importanza proprio per questo, per consentire a una rosa, a un gruppo, a una nazionale di testare le condizioni ambientali, i terreni di gioco, insomma tutto quello che si troverà fra un anno in un mondiale. L'Italia si è guadagnata questo privilegio sul campo, arrivando seconda all'Europeo un anno fa a Kiev, ed è secondo me giusto che Prandelli provi a sfruttarlo fino in fondo. Poi l'occhio di riguardo nei confronti dell'Under 21 lo ha avuto lasciando ad esempio Marco Verratti, però è giusto che si sia portato gli uomini che secondo lui tra un anno certamente faranno parte della spedizione. Andrea da Como, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Grazie dello spazio. Ascolti, io volevo parlare di ieri sera della partita dell'Italia Under 21, che a me non è dispiaciuta assolutamente, anzi. Però una cosa che a me convince un pochettino a non convincere troppo è questa Spagna. Adesso dirò delle cose che magari penso che lei non condividerà, però l'anno scorso contro di noi all'Europeo, alla finale, hanno cominciato contro l'Europeo, viaggiavano il triplo di noi, quest'anno viaggiano il triplo degli altri. Sì, ma non mi parli della questione doping però, per cortesia, Andrea, glielo spiego perché. Perché io condivido con lei che sullo sport spagnolo ci sia una zona d'ombra che andrebbe spazzata e che la Spagna per prima non vuole evidentemente che sia spazzata. Però Andrea, fino a prova contraria, non è corretto legare i successi del calcio spagnolo, che sono successi ovunque, nelle nazionali, a qualunque livello, con il Barcellona, con il Real Madrid, legare tutto questo a pratiche illegali. Io penso che non sia corretto. Poi ne parleremo nell'ultimo blocco di doping, perché quello che abbiamo letto oggi sui giornali, in particolare sul Sole 24 Ore, legato ai retroscena del caso Schwarzer, scusate ma a me fa schifo. Poi ne parleremo. Il doping è una cosa seria, se ci sono solo sospetti, Andrea, è meglio lasciar perdere. Parliamo un po' di pallacanestro, finali NBA, questa notte c'era gara 6, San Antonio Miami. Sentite che cosa è successo. Spurs foul. Should Miami go for the three right away? Just attack the basket. James catches, puts up a three. won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Spurs do not have a timeout. La tripla di Ray Allen che ha rimesso in vita Miami. Mancavano 5 secondi alla fine dei tempi regolamentari. San Antonio era avanti di 3 punti, aveva una mano e 3 dita secondo me sul titolo NBA, e poi invece ha vinto Miami all'overtime 103-100. Saluto Pietro Scibetta. Ciao Pietro. Ciao. Caporedattore di rivista ufficiale NBA, telecronista di Eurosport, collaboratore della Gazzetta dello Sport, al quale chiediamo se questa notte l'ha buttata via San Antonio o l'ha rivinta dopo averla persa Miami. Direi che entrambe le opinioni sono legittime, nella misura in cui era lì e bastava veramente, come dicevi tu, una mano in più su quel pallone che ha preso invece da Chris Bosh, che poi l'ho ributtato fuori per Ray Allen e ha di fatto prolungato la partita. Quindi è impossibile avere un'opinione definita su chi l'abbia vinta e chi l'abbia persa. È andata così e devo dire probabilmente meglio per tutti, nel senso che ci vedremo una gara 7 che indubbiamente sarà ancora più carica di emozione e di significato per tutte e due le franchigie. Sì, Ray Allen assoluto protagonista, anche se poi in termini di punti ha fatto meglio LeBron James. Ray Allen ha messo la tripla del pareggio nei tempi regolamentari, ha preso il rimbalzo forse decisivo a meno di 2 secondi dalla fine del supplementare con Miami avanti di un solo punto. Io lo voto come MVP. C'è poi da dire che LeBron James ha avuto il coraggio del fuoriclasse, ha sbagliato 3 tiri consecutivi a 1 minuto dalla fine, sembrava aver affossato Miami e poi invece alla fine in qualche modo l'ha rimessa in piedi. Va anche detto che però li ha riportati dentro lui, mettendosi a giocare la sua pallacanestro di altissimo livello dopo 3 quarti abbastanza anonimi, quindi senza di lui Miami non sarebbe nemmeno arrivata probabilmente a quell'ultimo tiro di Ray Allen per pareggiare e poi vincere nel supplementare. Quindi su LeBron purtroppo c'è sempre questa critica feroce in un senso e nell'altro, a me sembra che sia condannato a strafare. Parliamo di un giocatore che ancora stanotte ha fatto più di 30 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, è il secondo di sempre come numero di triple doppie realizzate in finale NBA, secondo di tutti i tempi anche come triple doppie realizzate nei playoff. Secondo me parliamo veramente di niente quando mi riferisco alla tua osservazione, ma quando parliamo di un giocatore perdente, perché quanto potesse raccogliere. Ma è successo in particolare dopo gara 3, quando San Antonio ha asfaltato Miami, sono tornati alla carica gli anti LeBron. Io non riesco a comprendere perché bisogna essere per forza anti qualcuno, perché LeBron non è come lui, non è come Jordan, non è come io. Sono della linea che secondo me tanto vale la pena goderseli tutti questi campioni finché li possiamo vedere. Quindi LeBron James ovviamente ci ha messo del suo, Miami secondo me ha visto in faccia lo spettro della finale con Dallas, che aveva perso in gara 6 anche in virtù della prestazione moscia, diciamo così, di LeBron nei primi 3 quarti. Adesso è difficile dire quale delle due tra Miami e San Antonio avrà ancora più energia nel serbatoio in gara 7, perché sì, anche dal punto di vista psicologico, Pietro, perché credo che una sconfitta ovviamente come questa non possa non restare nella testa e nel cuore degli Spurs. Certo. Allo stesso modo farebbe un enorme errore Miami a pensare che questo possa pesare più del dovuto nella testa e nelle gambe di San Antonio, che ha l'esperienza necessaria anche in un contesto di finale NBA per resettare tutto e giocarsi dall'inizio una gara 7 al massimo delle sue possibilità. Ecco, bisogna vedere poi se fisicamente, in particolare il Parker e Duncan, saranno al massimo delle loro possibilità. Questo è più della testa, mi preoccuperei di quello se fossi uno dei San Antonio Spurs in questo momento. Poi è chiaro che, come ha detto anche Manu Ginobili a fine partita, è un momento durissimo perché il titolo era vinto e adesso devi convivere con il rammarico di aver avuto obiettivamente la possibilità di alzare il trofeo a 5 secondi di distanza. Insomma. Sì, bisogna ricominciare tutto da capo. C'è Paolo da Mantova che ha chiamato all'800 24 00 24. Paolo, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno. Prego. Buongiorno, stanotte ho dormito solo 3 ore, ma è stato uno spettacolo veramente fantastico. Meraviglioso, certamente. La partita tecnicamente forse non ai livelli massimi che queste squadre possono esprimere, perché molti giochi sono saltati, Miami è logico che doveva vincere contro questi San Antonio, che comunque Parker mezzo servizio, Duncan vecchio, Ginobili che ha fatto veramente schifo, eppure veramente è stata una partita fantastica. Volevo chiedere eventualmente un paio di aspetti tecnici al... Prego. Uno, non ho capito, capisco che Wade debba per forza giocare per contratto, però quando recuperi 14 punti con un quintetto fatto apposta sull'asse Allen LeBron, rimetti Wade. Sì, perché negli ultimi minuti abbia scommesso ancora su di lui, certo. Poi? La sua stella. E la seconda, Duncan non ha giocato gli ultimi possessi difensivi. Io sono convinto che se ci fosse stato lui in mezzo all'area, l'ultimo rimbalzo Bosch non l'avrebbe presa. Pietro, cosa rispondiamo? Su Wade in campo per meriti acquisiti, ha scritto anche un amico su Twitter. È vero in parte, nel senso che poi anche lì, se poi perdi la partita e comunque nel finale magari pensi che Wade ti poteva inventare una giocata decisiva perché comunque ce l'ha, è comunque stato l'icona di Miami per tanti anni, insomma, un giocatore che ti ha fatto vincere un titolo già in carriera, fai fatica a lasciarlo fuori, anche perché in gara 4 e gara 5 obiettivamente aveva fatto grandi cose reagendo a un momento molto complicato, onestamente. E poi per filosofia nell'NBA, quando arriva il momento decisivo della partita, giochi con chi ti pensi ti abbia portato lì per tutta la stagione, al di là della singola partita, e con chi tu ritieni sia il giocatore più forte, insomma, o comunque il quintetto più forte che hai a disposizione. Gli allenatori ragionano con questa mentalità, Pietro. Ti devo chiedere un minuto di pazienza, poi ti faccio un'ultima domanda e ci proiettiamo invece su Roma-Siena di questa sera, che può regalare a Siena il settimo titolo consecutivo, però adesso c'è il traffico. Tutti convocati. Un allenatore europeo fa fare fallo sull'ultima azione, due tiri liberi e ciao Miami, Daniele da Treviso. Poi un altro amico al 349-238-6666, nell'NBA le partite sono false come Giuda, conta solo la pubblicità, lo sport sta altrove. Poi ci avete scritto in tanti sulla questione della tenuta fisica della Spagna. Rispondo ad Andrea da Como, che era l'amico che prima è intervenuto e che dice: lei come tutti gli altri giornalisti siete una casta, adesso è il momento di idolatrare la Spagna e guai a chi prova ad andare contro questo pensiero. Ai miei figli sto insegnando che la principale causa del disastro del nostro paese è dovuta all'informazione, per me non valete nulla, stia sereno Andrea. Le ho detto che il legame tra il doping e lo sport spagnolo è un'ombra scandalosa sulla quale bisognerebbe portare un po' di luce, ma non siamo io e lei a parlare di quanto ha corso ieri la meravigliosa Under 21 spagnola, che possiamo cambiare questa situazione. Ad esempio è stato molto più interessante nei mesi scorsi raccontare che cosa è successo al processo penale per l'Operación Puerto, e l'ha fatto in maniera mirabile il nostro Filippo Maria Ricci. Pietro Scibetta, per chiudere, questa sera a Siena si può scrivere una pagina di storia. Noi ieri abbiamo intervistato Petrucci sul clima di questa finale. Io mi auguro che questa sera ci sia un clima un po' più sereno, non ci scommetterei se devo essere sincero. Onestamente nemmeno io, anche perché è chiaro che insomma, ero a Siena a vedere gara 4, ho visto e sentito con le mie orecchie insomma la reazione del presidente Toti. Onestamente io dal campo non ho avuto poi tutta questa impressione che ci fosse uno scandalo di dimensioni così incredibili come Roma lamenta. Ci sono stati dei fischi rivedibili sui quali si può condividere o meno, però da qui ad aizzare questo putiferio, secondo me si è un po' andati oltre, ecco, devo dire la verità. E francamente da una parte devo dire non credo che sia giustificabile in alcun modo. Sì, c'è un po' di esasperazione, c'è anche qualche errore forse di troppo, Pietro. Sì, gli errori ci sono indubbiamente, secondo me c'è anche una difficoltà da parte degli arbitri a gestire le emozioni proprie e quelle dei giocatori, che peraltro devo dirti sono nettamente per distacco gli elementi più lucidi, certo, nei vari palazzetti, tifosi compresi, perché non dobbiamo neanche prenderci in giro. Non è vero che Totti è stato accolto con grande serenità. No, non c'è dubbio, ma insomma, ma lo abbiamo raccontato, Pietro. Ti devo salutare. Ti devo salutare, grazie a Pietro Scibetta. Comunque, insomma, domani racconteremo come è andata questa finale Roma-Siena e se in questo caso ci sarà il capitolo numero 6. Grazie a Pietro Scibetta. Saluto e ringrazio Claudio Gatti, corrispondente del Sole 24 Ore, che oggi ha scritto sullo scandalo Schwarzer con quella rete di complicità e connivenze che la Procura di Bolzano sta portando alla luce. Claudio, buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio a voi. Abbiamo purtroppo soltanto un paio di minuti, ma io ti do già l'appuntamento per sabato, dove ci prendiamo un quarto d'ora per cercare di raccontare bene questa storia, che è una storia allucinante. Par di capire che Schwarzer non fosse l'unico colpevole, insomma, della sua positività. Secondo la Procura di Bolzano c'è stata una rete di supporto e di favoreggiamento e concorso in questa attività, in queste pratiche, che coinvolgeva due medici federali della Federazione dell'Atletica Leggera, una dirigente e anche addirittura l'allenatore, che era parte appartenente al centro sportivo dei Carabinieri. Sì, quindi tu hai pubblicato, ci sono una serie di mail, di sms, di contatti, insomma emerge secondo la Procura di Bolzano che in tanti sapevano delle pratiche di Schwarzer, ma chi doveva controllare e denunciare si è girato, diciamo, quantomeno dall'altra parte, se non probabilmente ha favorito queste pratiche. Beh, certamente, io stesso ieri ho parlato col dottor Fischetto, che è una delle persone la cui abitazione è stata perquisita, accusata di concorso in questa attività, e lui, la sua difesa è stata che lui facesse delle cose strane lo sapevano tutti, non era mio compito far sì che il CONI li facesse, lo testasse con frequenza, quindi sembrava un'ammissione proprio del fatto che la persona che alla vigilia delle Olimpiadi veniva presentato dalla FIDAL e dal CONI come la punta di diamante dell'atletica italiana, in realtà era una persona che giocava col fuoco del doping da tempo. Non c'è dubbio, tanto che secondo la Procura di Bolzano esistono anche ombre sulla medaglia d'oro straordinaria, lo metto fra virgolette, alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Sì, perché hanno studiato il cosiddetto passaporto biologico e quindi i valori ematici dell'atleta a partire dal 2005, e hanno notato che quei valori avevano alcuni valori chiave, quale l'ematocrito, erano decisamente inferiori negli anni che hanno preceduto l'Olimpiade, e quindi il sospetto che ci sia stata una manipolazione ematica anche all'epoca. Claudio Gatti, io ti ringrazio, ti do appuntamento sabato, ne parliamo in maniera un po' più compiuta, perché è davvero un discorso interessante e scivoloso. Noi abbiamo ospitato anche la testimonianza nei mesi scorsi di un ex tecnico importante azzurro come Donati, che ha fatto delle denunce in tema di doping, ed è interessante tornarci. Grazie a Claudio Gatti. Grazie a voi. Grazie a Claudio Gatti, Sole 24 Ore. Siete in tanti che ce lo state scrivendo, ma dove è finito Carlo Genta? Per qualcuno è andato al mare perché fa troppo caldo, per qualcun altro è finito forse in un fosso sull'isola di Man. Allora, sapete cosa facciamo? Domani a quest'ora svegliamo il mistero di dove è finito Carlo Genta. Domani lo svegliamo. Io ringrazio e saluto Franco Piantanida, che è autore di questa puntata, Robby Scaltritti in regia. Un saluto da Giovanni Capuano, l'appuntamento domani a partire sempre dalle ore 14. Carletto, non rubare la cioccolata, non dire più alla nonna che è ingrassata. Carletto di qua, Carletto di là, questo non si dice, questo non si fa.